Laci con la mano e da dove veniamo? Laci con la mano e da dove veniamo? Cini, cini, cini, cini. Tiro su una canna lunga mezzo metro. Passo nel quartiere sopra un mezzo nero. La tua tipa shih tzu che ha il mio solero. E a te non ti pompa, fra ti fa un pampero. Grossi scarsi, grossi babbi fanno gossip. Noi con due pacchi troppo grossi nel back dell'enjoy. Sbirri guardano dall'alto foto polaroid. Sorrido sempre ciao, sì ma fatti i cazzi tuoi. Il tuo flow ebola, il mio flow Legolas, Cisa Cry, è mental, poi ci si regola. Ed è chiaro che con noi non fotti, come con lei quando ti fai più cotti. Laci con la mano e da dove veniamo? Cini, cini. Laci con la mano e da dove veniamo? Cini, cini. Laci con la mano e da dove veniamo? Cini, cini. Laci con la mano e da dove veniamo? Cini, cini. Vogliono repare come quello di Cini. Vogliono fumare come quelli di Cini. Vogliono parlare come quelli di Cini. Senza stare a Cini. Solo qua vicini. Nati e morti a Cini. Nati e morti a Cini. Sognavo un futuro diverso da questo. Sognavo diversi destini. Ma siamo affini a crimini infini. Prima di vendere dischi infimi vendavamo chili. Giri su giri. Come ragazzi di Cini. Come ragazzi di Cini. Come ragazzi di Cini. Come ragazzi di Cini. Come ragazzi di Cini. Come ragazzi di Cini. Come ragazzi di Cini. Come ragazzi di Cini. Come ragazzi di Cini. Da dove veniamo? Cini, Cini. Laci con la mano e da dove veniamo? Cini, Cini. Laci con la mano e da dove veniamo? Cini, Cini. Senza stare a Cini. Solo qua vicini.